Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi. I fatti, i personaggi, le storie grandi e piccole della cronaca che ci parla di noi. Questa è l'Italia in controluce che ogni giorno vi raccontiamo. Oggi è il 27 gennaio, giornata della memoria. Memoria di che cosa? Memoria della Shoah, una parola che in lingua ebraica significa catastrofe, disastro, desolazione. Ma perché un termine specifico così duro per il popolo ebraico? Tutto ebbe inizio nel 1938, quando gli ebrei riuniti in Palestina usarono per la prima volta quell'espressione Shoah per definire quella che alla storia passò poi come la notte dei cristalli tra il 9 e il 10 novembre, l'aggressione premeditata di migliaia di ebrei tra Germania, Austria e Cecoslovacchia. Tuttavia non è facile ricordare, specialmente se il ricordo è doloroso. E poi, perché la data del 27 gennaio? Maria Chiara Grandis ha girato la domanda in una scuola romana. Allora, la Shoah è lo sterminio degli ebrei. È stato fatto nella Seconda Guerra Mondiale. La prima volta è venuto ai tempi di Nabucodonosor. È una memoria per tutti gli ebrei che sono stati uccisi. Se ti dico cos'è la Shoah, cosa mi rispondi? L'olocausto? Lo sterminio degli ebrei. Beh, è la strage di cui fecero i nazisti degli ebrei. È il famoso olocausto. Chi più, chi meno, fra gli studenti del liceo classico Virgilio di Roma, quasi tutti sanno spiegare cosa si intende con i termini Shoah. Ben più difficile per la maggior parte di loro è rispondere a un'altra domanda sull'argomento. Perché il 27 gennaio è il giorno della memoria? Non lo so. In tutta sincerità non lo so perché il 27 gennaio. No, non me lo ricordo. Non sono così informata. Non me lo ricordo. A sorpresa la risposta corretta arriva dai ragazzi di quarta ginnasio. È il giorno della liberazione di Auschwitz da parte delle armate russe. Quando hanno aperto le porte di Auschwitz hanno liberato tutti gli ebrei. Sarà perché, dicono gli altri, è alle medie che ci si informa di più in materia. Film, dibattiti e incontri che raramente trovano spazio poi fra il latino e il greco. Anche perché si ritiene che un ragazzo di 17, 18 anni, differentemente da quanto dimostrato, sappia. E soprattutto perché una scuola multiculturale aiuta. Abbiamo un ragazzo ebreo in classe e quindi in questi giorni ha detto che sarà assente appunto per la Shoah. Insomma, ne parliamo spesso anche con lui per sapere di più sulla sua religione. Furono le truppe dell'armata sovietica a entrare il 27 gennaio del 1945 ad Auschwitz, la cittadina polacca dove i nazisti avevano creato uno dei peggiori campi di concentramento. Trovarono morti e superstiti. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. Per la prima volta in modo nitido veniva svelato al mondo l'orrore del genocidio nazista, lo sterminio di milioni di ebrei. Monio Vadia è un autore, scrittore, regista di cultura ebraica, attore e narratore. Sulla memoria ha costruito testi e spettacoli. L'ha intervistato Marta Cagnola. Quando l'uomo cessa di dire o di raccontare, allora è veramente finita. Non è tanto finito il mondo o il divino, è finito l'uomo, cioè se l'uomo cessa di raccontare, di raccontarsi, allora davvero l'assassino ha vinto definitivamente. Tra l'altro Primo Levi diceva: tra 20 anni non ci saranno più sopravvissuti e quindi gli altri potranno negare tutto quello che è successo. Il pericolo è autenticamente presente. E Primo Levi aveva una grande visione, estremamente lucida, perché c'era e spero ci sia ancora una sola strada perché i negazionisti non possano compiere il loro lugubre lavoro, quello di trasformare il mondo e di fondare un mondo basato sulla giustizia, sull'uguaglianza, sulla pari dignità, sui diritti. Purtroppo da questo punto di vista siamo tornati indietro. Sto vivendo proprio in questo momento un grande momento di angoscia se penso a Rosarno, se penso alle vessazioni e alle discriminazioni che subiscono i miei amici Rom e Sinti, i miei fratelli, siamo stati accomunati nel destino, se vedo ancora negati i diritti agli omosessuali. Insomma, siamo molto molto a rischio di una regressione che permetta, al punto da permettere che queste cose si ripetano. Vediamo dei segnali estremamente, estremamente allarmante. Che fortuna vi è concessa, un popolo, tutto un popolo, rallegratevi cieli lassù con i tedeschi, e i tedeschi si rallegrino qua giù con voi, e un fuoco salga dalla terra fino a voi, e un fuoco scenda da voi fin sulla terra. Grazie a un linguaggio che è arrivato a tanta gente, può raccontare arrivando davvero anche al grande pubblico. Lei come vive questa responsabilità? Io ho avuto in dono un po' di talento e avere questa capacità rapsodica di narrare, di raccontare. Sono un piccolo contastorie, però ho un grande monito morale che ho assunto col latte materno e che mi hanno tramandato generazioni e generazioni di esseri umani. Quel monito che si trova nella grande scrittura della Bibbia, quella che noi ebrei chiamiamo Torah insegnamento, e che ha quel suono solenne e fortissimo dentro le nostre anime, che suona in ebraico Yischor, ricorderai, perché la memoria fa parte del progetto di redenzione dell'uomo. Senza la memoria del cammino, dei costi, dell'attraversamento di secoli e secoli di storia, noi non potremo mai redimere e redimerci, e nessuno si redime da solo. L'umanità o si redime insieme o si perde insieme. Questo giorno può diventare un pericoloso ricettacolo di falsa coscienza. I segnali sono ancora molti. C'è qualcuno che pensa che il giorno della memoria consista nell'essere carini con gli ebrei. Io mi batterò come un leone perché il giorno della memoria non diventi il giorno della falsa coscienza, ma diventi il giorno della consapevolezza che noi uomini apparteniamo tutti a una sola matrice, e l'orrore nazista ha insegnato che lì è stato ucciso l'essere umano, e il giorno della memoria deve essere un enorme catalizzatore di tutte quelle battaglie contro ogni privilegio. Al liceo milanese Berce, una iniziativa originale per ricordare, per onorare la memoria dei morti della Shoah certamente, ma anche per ridare un volto e un nome agli studenti espulsi dalla scuola in Italia a partire dal 1938, quando le leggi razziali nel nostro paese imposero agli ebrei di abbandonare gli studi. Marco Lignana. L'idea è arrivata dopo 72 anni. A oltre due terzi di secolo dall'introduzione delle leggi razziali in Italia, il liceo classico Berce di Milano ha deciso di fare qualcosa per le vittime della follia nazifascista. Perché a partire dal 1938, come in tutto il resto del paese, anche nello storico istituto Meneghino, studenti e insegnanti dovettero abbandonare le aule. Erano ebrei, dunque la loro presenza avrebbe inquinato la razza italica. Adesso però è l'ora di un piccolo ma simbolico risarcimento, come spiega il preside Innocente Pessina. L'iniziativa corrisponde a un impegno che abbiamo qui in questa scuola di celebrare il centenario di questo liceo. E nella storia così gloriosa appunto di questi 100 anni c'è una pagina brutta, 1938-1939, in quell'anno 45 studenti di questa scuola vennero cacciati a seguito delle leggi razziali. Ecco, l'idea nostra è quella di riprenderceli. Vennero espulsi per motivi iniqui, sbagliati, orridi, oserei dire. Bene, noi facciamo questo gesto riparatore, chiediamo scusa a loro, li riprendiamo e consegneremo a loro un diploma simbolico. Molti degli espulsi finirono gli studi alla scuola ebraica, ghettizzati e quindi facilmente controllabili. Fra questi c'era anche Flora Ancona, appena sedicenne, che oggi ricorda. Erano già mesi e mesi che c'erano delle campagne contro gli ebrei sui giornali, così feroci. Poi a un bel momento, in estate, ero in villeggiatura e leggo questo ultimo comandamento che né gli scolari né gli insegnanti potranno più fare la loro insegnamento, il loro lavoro in Italia per la pulizia della razza, per tutte queste belle storie. E al momento io non ci credevo, ma no, dico, sarà una notizia così. Invece poi quando sono arrivata davanti alla porta del Bercé mi hanno dovuto respingere. La persecuzione però si fa sempre più stringente. Con la guerra, i bombardamenti degli alleati e soprattutto l'arrivo dei tedeschi al nord, gli ebrei italiani cercano di fuggire a un destino disumano chiamato campo di concentramento. Per Flora, la salvezza è l'inizio della fine di un incubo, è la terra svizzera. Noi eravamo, si diceva allora, sfollati, perché qui venivano anche le bombe a Milano, ovvero era in piena guerra così. Allora avevamo, mio padre aveva una villa a Tremezzo e lì ci sono venuti ad avvisare, attenzione, stanno arrivando i tedeschi qui. Allora mio padre, che lui aveva fatto la prima guerra mondiale, ha detto: io i tedeschi li conosco, domani mattina si parte tutti. È tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchesi. Potete raccontarci le vostre storie scrivendoci a controluce@radio24.it, oppure potete cercarci anche su Facebook. Ci risentiamo alla prossima edizione domattina alle 6:30 da Alessio Maurizi. Una buona giornata.